Salve da Radio Big World, la seconda puntata di Pasquale che comunica le proprie emozioni e le proprie idee a chi lo vuole ascoltare. L'argomento che bisogna, è utile, anche punto interrogativo, mescolare acqua e vino, nel senso allegorico naturalmente, non nel senso fisico. In questa seconda puntata parleremo di un elemento molto delicato da un punto di vista personale. È necessario vivere da soli, ma non si può vivere isolati. Perché vivere da soli è un po' il filo conduttore di tutti quelli che saranno i nostri incontri, perché si è detto in precedenza che si nasce da soli, si muore da soli e l'intervallo tra la nascita e la morte, che è la vita sul pianeta Terra, è necessariamente da fare con gli altri, perché se si rimane isolati, io credo che non si possa gustare la vita e che non si realizzi neppure quella spinta forte che c'è dentro ciascuno di noi di ampliare continuamente la propria coscienza e il proprio rapporto con la natura su cui viviamo. Nella natura, evidentemente, allo scalino più alto c'è il rapporto con gli esseri umani, poi il rapporto col mondo animale, col mondo vegetale, il rapporto con quello che sembra non possa darci rapporto, e cioè per esempio il paesaggio, le montagne, le rocce. In realtà siamo tutti in qualche maniera influenzati dalla presenza del paesaggio, dalla presenza degli animali, dalla presenza degli esseri umani. E in modo forte dalla presenza di qualcosa che dentro di noi ha fame di relazione e di conoscenze e ci stimola a fare questi continui collegamenti con quello che ci circonda, anche se questo ci crea un po' di disagio. Vivere da sole ovviamente non significa vivere da eremiti, non significa il deserto, non significa chiudersi in una stanza da super intellettuali che possono leggere, sanno di tutto e che però non si confrontano con nessuno. Io pensavo in questi giorni a una storia che da ragazzetto mi aveva colpito. Nel V secolo d.C. in Siria c'era un signore che si chiamava Simeone lo Stilita. Simeone è un nome abbastanza diffuso. Lo Stilita perché questo signore, che in quel periodo in cui l'aspettativa di vita era bassissima, è vissuto 72 anni in Siria, di cui 37 in cima a una colonna. Perché in cima a una colonna? Perché non voleva avere relazione con le altre persone. E quindi se ne stava isolato 5 o 6 metri sopra al piano della terra, su un pianerottolo di qualche metro che era alla testa della colonna, e lì tutto il giorno da solo. Io no, non so come facesse, mi ubriacava questa idea, però qualcuno ovviamente gli portava da mangiare. E poi una cosa curiosa che mi domandavo sempre, ma come faceva a fare i suoi bisogni? Ma questo non importa, che noi in questo momento diamo una risposta. Sicuramente era ben organizzato. Allora, vivere tipo Simone lo Stilita non è una cosa interessante ai giorni d'oggi, in cui ci sono tanti mezzi per comunicare con gli altri, dall'incontro faccia a faccia, dall'incontro attraverso i media, tra l'incontro attraverso le letture. E allora, se lo scopo della vita è riempire questo contenitore che siamo noi, lo scopo proprio riempire un contenitore, una persona, la necessità impellente per riempire questa persona è la relazione con gli altri. E riempire questo contenitore che siamo noi, che è la vita di ognuno, attraverso le relazioni con gli altri, è un elemento molto gratificante, perché percepire che di giorno in giorno ci sa qualcosa, siamo qualcosa in più di quello che eravamo il giorno precedente, secondo me è molto gradevole e dà uno scopo alla vita. Quando ci guardiamo intorno, vediamo tante cose gradevoli e altre meno. Siamo in un contesto sociale, così si dice, dove qualcuno collabora con noi, qualcun altro ci usa, qualcun altro ancora abusa di noi. E allora, per vivere insieme, per mescolare acqua e vino, per avere una buona qualità, bisogna in qualche maniera limitare che qualcuno ci usi e specialmente che qualcuno ci abusi. Allora oggi, per analizzare in piccola parte questa situazione, per creare questa ribellione ad essere usati e abusati, ho pensato al mondo sociale, dove tutti si deve contribuire perché la società sia equa, perché i servizi siano distribuiti a tutti, perché i costi siano divisi fra tutti. E quando ho pensato al nostro mondo delle tasse, che sarebbero i costi da distribuire a tutti i cittadini per avere tutti i benefici, per avere qualità di vita gradevole, mi sono ribellato all'idea che in questi giorni si parla proprio con esibizione spudorata della quantità di tasse evase nella nostra patria, nell'Italia. Miliardi! Con quelle tasse evase si potrebbero fare tantissime cose. Dare il dentista gratuito a tutte le persone, dare la cultura diffusa a tutte le persone, dare un'abitazione gradevole a tutte le persone che fanno parte del territorio. E invece questo non avviene, perché qualcuno abusa di noi. Allora, queste tasse che non vengono pagate in realtà comportano un beneficio a chi non le paga, perché non solo non paga le tasse, ma fruisce dei beni comuni pagate dalle tasse di tutti quelli che pagano regolarmente le tasse. Allora, queste persone che non pagano sono socialmente deprecabili e credo bisogna fare qualcosa perché questo non continui ad avvenire. Io mi ribello all'idea di fare per qualcuno che abusa di me. Io mi ribello a questo. Allora mi sto chiedendo, come mai ci sono tante persone che non pagano le tasse? Noi abbiamo un mondo che gestisce la nazione Italia e si chiama il mondo della politica. Tante primavere sulle mie spalle. Da quando ho visto la primavera, la prima primavera, non ho ricordanza di qualcuno che abbia detto che le tasse in Italia si pagano in modo equo e da tutti. Allora, sto pensando non ai politici di oggi, a quelli di domani, ma a quelli di ieri l'altro, a questo mondo che in maniera fasulla ci fa credere di fare equità e di distribuire i servizi nella società in cui viviamo e in realtà non lo fa. Perlomeno io percepisco questo, che non lo fa. Se qualcuno ha delle informazioni, delle sensazioni che invece il benessere come godimento e le spese necessarie per produrre benessere sono suddivise in maniera equa, me lo dica, io quel giorno sarò contentissimo. Allora mi sto chiedendo dentro di me, ma come si fa a sopportare questo mondo politico che da tanto tempo dice di voler fare e non fa? E questo avviene perché siamo gestiti da incapaci o perché siamo gestiti da persone che non vogliono il bene sociale? A me farebbe piacere se qualcuno di quelli che ascoltano queste riflessioni personali decidesse di esprimere il proprio parere e di farmelo conoscere. Anche per questa volta vi saluto. Un saluto a ciascun ascoltatore di Radio Big World e arrivederci a presto.